O si fa sul serio o niente. Così Clelia Montagnana, una ragazza di appena 25 anni, nell'agosto del 1917 incitava la folla ad assaltare la chiesa di San Bernardino, insieme alla sorella minore, Rita Montagnana, che all'epoca aveva 22 anni. Erano i giorni della rivolta del pane a Torino. La protesta si era presto trasformata in una vera e propria sommossa ed era dilagata nei quartieri operai, dove le donne guidavano per le strade cortei di rivolta. I motivi economici della mobilitazione si intrecciavano a doppio filo con gli obiettivi politici. La protesta contro la mancanza del pane era protesta contro la guerra. Si capisce allora per quale motivo l'attenzione della popolazione di San Paolo si concentra sulla chiesa e sul vicino convento dei frati. I sotterranei della chiesa ospitavano infatti un magazzino militare. I frati, inoltre, si erano già inimicati la popolazione del quartiere l'anno precedente, quando avevano picchiato e sfregiato dei ragazzi che si erano introdotti nell'orto del convento per rubare della frutta, marchiandoli sulla testa con il simbolo della croce. L'assalto caldeggiato da Clelia e Rita Montagnana riesce. Chiesa e convento vengono saccheggiati. La folla requisisce le abbondanti scorte di viveri dei frati e gli edifici vengono poi dati alle fiamme. Nel corso della Prima Guerra Mondiale sono le donne, sempre più presenti nelle fabbriche e investite in famiglia di sempre maggiori responsabilità, a chiamare alla lotta gli operai maschi. Sono le donne ad assumere comportamenti indisciplinati, rappresentando insieme ai ragazzi, spesso soli, le soggette più insubordinate ed arroganti, le esecutrici materiali delle azioni più eclatanti di rivolta, le prime a partecipare a dimostrazioni piazzaiole e antipatriottiche. Sono le donne, del resto, che collegano più facilmente il movente economico del pane a quello della pace, alla necessità di far cessare immediatamente la guerra, per riportare a casa i giovani che erano stati mandati a morire al fronte. Ciò nonostante, la polizia, non riuscendo ad immaginare che quelle parole di incitamento che avevano portato al saccheggio e all'incendio della chiesa di San Bernardino fossero state pronunciate da una donna, arresterà il fratello delle sorelle Rita e Clelia, Mario Montagnana, coprendosi addirittura di ridicolo, quando in un primo momento annunciò di aver arrestato Rita Montagnana.